piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Culturalmente inadatto e razzista, viene bollato così dalla piattaforma video on demand statunitense HBO il film Via col vento, espulso dal catalogo. Il Colossal, annata 1939, ambientato nella guerra di secessione americana, il film più visto della storia del cinema, aveva consacrato la vezzosa Vivian Leigh, affiancata dal superbo Claire Gable. Fece pure vincere il primo Oscar ad un'attrice afroamericana, Hattie McDaniel, nei panni della domestica. Mettimi il vestito, è già tardi. Che vestito ti metti? Quello! No, quello no, essere troppo sgollato per pomeriggio. Io andare a dire tua madre. Se tu lo dici alla mamma, non mangio affatto. Sono scrupoloso. Io mi sto guardando Via col vento. Devo dire, non lo vedevo da quando ero bambino, perché lo andai a vedere, mi sembra, con mia nonna, piangeva sempre, una noia, ma annoiai tanto. E ho cominciato a vederlo questa mattina alle 9 e naturalmente me mancano ancora qualche ora per potermelo vedere tutto. Adesso vi abbasso l'audio perché lo sto guardando mentre vi parlo e devo dire che mi ha divertito guardarlo. Ci ho visto tutto quello che naturalmente è il bagaglio di accuse che viene fatto in maniera molto esplicita in queste ultime ore, dopo che l'HBO ha deciso di non farlo vedere più ai suoi abbonati. Non vedrete più Via col vento perché è pieno di contenuti razzistici, detestabili, e quindi in un momento in cui il mondo sta prendendo coscienza di un atto, di un sopruso, di un omicidio efferato da parte poi di un poliziotto nei confronti appunto di George Floyd, una persona nera, è bene che questo film non si veda più. Su questo si distingue, naturalmente si divide, il parere generale. E vorrei su questo oggi chiamarvi a riflettere. La mia opinione? Certo, è un film che a me non è mai piaciuto e più lo vedo più mi sembra che l'aspetto più detestabile di questo film, ancor più dell'esaltazione razzistica che è palese, racconta quelli che hanno perso nella guerra di secessione, racconta una famiglia del sud, risaputo, in Georgia, c'era una bella piantagione di cotone, avevano tanti schiavi, è chiaro che gli rode l'anima che arrivano i nordisti e li riportano a dover lavorare la terra con le loro mani. La protagonista è Rossella O'Hara, che è stato l'idolo, l'eroina di un'infinità di ragazze che mai ebbero il coraggio poi nei loro atti concreti di imitarla nella sua spregiudicatezza, nel suo egocentrismo, nel suo figa di lignismo, perché in realtà si è ben facilmente concessa quando aveva necessità di avere denaro, portando via il fidanzato quasi sposato della sorella, perché aveva una bella segheria avviata, a lei servivano soldini e quindi se l'è sposato, si è sposato un altro coglione che è morto subito perché aveva questa manina delicata per cui attorno a lei morivano tutti, uno sterminio attorno a Rossella O'Hara, gli muore anche una povera bambina che tutto sommato è un destino migliore perché la vestivano in maniera orrenda, con dei vestiti da piccola cosacca, sotto il sole le piantagioni del sud, l'unica persona che in realtà l'amava veramente, che era Claire Gable, lei l'ha sempre disprezzato perché non voleva una persona di lei innamorato e con lui, anche se si è sposata, ha figa di legneggiato in maniera sublime, evitando di concedergli il debito coniugale perché aveva pure che di ingrassare dopo la prima gravidanza, e alla fine la scena finale, la scena che tutti ricordiamo, lui la manda a cagare logicamente finalmente e lei alla fine dice vabbè domani un altro giorno ci arrangeremo, viene questa voce fuori campo e dice la terra è l'unica cosa che dura è la terra, sembra quasi consolatorio. Ci sono leggende su questo film di set che Claire Gable aveva l'alito puzzolentissimo, chi dice per una dentiera messa precocemente, chi dice perché mangiasse aglio per fare rabbia alla protagonista che lui odiava. Comunque sia, di questo oggi dobbiamo parlare. Sembra giusto, sembra corretto che un film che indubbiamente ha dei valori sui quali oggi si è riscritto in civiltà notevolmente, era stato prodotto in un'America in cui il segregazionismo era palese, Nel 40, quando vinse 8 Oscar, l'Oscar che fu dato proprio all'attrice afroamericana, la Mamie, fece sì che durante la cerimonia fosse tenuta in uno stanzino per non farla vedere troppo, perché era nera e in fondo non era giusto mischiarle ad altre signore bianche. Quindi era un periodo su cui abbiamo preso tutte le distanze. Ma perché impedire oggi vedere Via col vento? Perché non ragionare piuttosto su quanto fosse testimone di un'epoca? Io penso che sia molto pericoloso seppellire, cementificare, buttare sotto il tappeto dei sentieri passati, perché semplicemente non corrispondono più alle sensibilità contemporanee. Questo fa sì che non ci sia scuola, non ci sia evoluzione di pensiero se non vediamo come eravamo prima. E seguendo questo principio, che l'esasperazione è politicamente corretto, anche se appoggia su una base giusta di recriminare atteggiamenti discriminatori razzistici, fa sì che noi ci perdiamo il senso della nostra storia. La storia va vista, rivista continuamente, riletta, reinterpretata, rivista e confrontata con gli strumenti che noi abbiamo, non cancellata. Se dobbiamo cancellare tutto dall'epica, ma immaginate l'Iliade, quanto in realtà nell'Iliade c'è di terribile. Il solo fatto che una donna venga considerata un possesso, si faccia una guerra perché il re rivoleva sua moglie, che se n'era lecitamente andata con un altro, aveva messo le corna, non la voleva più. Ecco, basandosi su questo principio della donna considerata come oggetto per cui vale la pena fare una guerra a 10 anni, ammazzare e scannare non si sa quante persone, ecco, già questo farebbe sì che uno dovrebbe dire togliamo l'Iliade da tutti i programmi scolastici. Invece no, va vista, va letta, va interpretata, bisogna coglierne l'essenza poetica, seppur legata a atteggiamenti, punti di vista, visione della vita che consideriamo aberranti. Quindi 800240024, cominciamo a sentire come la pensate voi, che probabilmente avete amato, odiato, detestato, visto Via col vento. Io questa mattina ho raccolto testimonianze di amiche che ne hanno fatto la bandiera della loro vita. Siete d'accordo che in realtà il progresso e l'incivilimento dell'umanità debba corrispondere a un cancellare i momenti in cui l'umanità magari era meno civile, si basava su altri punti fermi? Reggere forte, non respirare. Mami, la colazione di Miss Rosella. Riportala in cucina, non la voglio. Oh sì, tu mangiare fino all'ultimo boccone, capito? Ho detto non la voglio. Provo ad analizzarlo da tutti i punti di vista, che bisogna entrare anche nella mentalità di chi ha lanciato l'idea di censurare, di non far più vedere Via col vento, che era un regista afroamericano. Beh, immaginate di vedervi rappresentato comunque nella categoria di persone identificabili dal colore della loro pelle, che vedono come rappresentazione, seppur remota, passata, della loro esistenza una signora che parla in maniera grottesca e che viene trattata come una schiava, anche se con quella tenerezza, perché in fondo è buona Miss Rossella, anche se poi le prende a schiaffi le schiave. C'è una scena terribile in cui, quando Miss Rossella mette su finalmente questa segheria portando via il marito alla sorella, c'ero arrivato poco tempo fa, non sa chi far lavorare nella segheria perché è abituata con gli schiavi, non è abituata che le persone vadano pagate per lavorare. E a un certo punto una specie di tagliagole gli porta dei poveri galeotti legati con le catene e dice: lavoreranno per lei, cioè, però datemi mano libera, devo farli lavorare col modo mio, cioè prendendoli a bastonate e frustate. Lei, con i suoi bei vestitini imbroccato e merletti, dice: sì, fate pure, purché lavorino, e non gliene importa assolutamente nulla. 800240024, Lores, provincia di Vicenza, prima persona che giudica. Buongiorno, ma proprio lei sta descrivendo quel film. Io non ho mai visto, cioè l'ho visto 100 volte, non ho mai visto quello che tu lei sta descrivendo. Cosa? Vuole sapere, il figa di legnismo di Rossello Ara, palese. Vuole sapere quello che sta descrivendo lei? Lo vuole, sì, che glielo dica? È certo. Quello che sta succedendo in Italia con i comunisti. Importano schiavi negri per fare i lavori più bastardi, per abbassare gli stipendi per gli... No, lasci parlare a me, per cortesia. Ma non c'entro, ma scusi, no, non la faccio parlare. Scusi, no, sta esprimendo il suo pensiero che io rispetto, ma è un'altra trasmissione, ma stiamo parlando di Via col Vento. No, è lei che sta descrivendo un altro film. Io la mammi l'adoravo, non ho mai visto io il disprezzo. Ma lavorava gratis, era una schiava la mammi, signora, era una schiava, lavorava Cristo, gratis. Per cosa lavorano i negri qua in Italia adesso? Me lo dica lei. Vabbè, senta, non ha diritto di parlare, dice lei cazzate, Loris, arrivederci. Ciao, ciao, sì, la taglio, ciao. Davide, la taglio sì, non ho capito, che devo farla parlare? Una persona che dice stronzate, la faccio parlare dicendo che la mami era felice di stare nel suo ruolo di schiava, non è una cosa ammissibile dire che uno schiavo è felice di farlo schiavo. Quindi direte che Nicoletti ha censurato Loris. E prego la regia, tutte le volte che io do su una persona, levatela perché non mi va di battibeccare. Allora, Davide, provincia la Pistoia, però questo è il segnale chiaro. Via col Vento ha subito aperto un acceso dibattito sulle persone che in realtà lo vedono come un film che mostra il lato buono del razzismo, cioè che in fondo Miss Rossella non è che la frusti poi la mami, ma la tratta come una dolce tenera mamma, senza dimenticare è stata portata in una nave con una catena al collo, probabilmente molti dei suoi parenti sono stati picchiati, accustati e ammazzati, e Rossella può avere diritto di vita e di morte su quella donna. Clara da Bologna. Io dico che non si deve seppellire niente sotto il tappeto, non leggo Via col Vento in questo modo, però dagli errori del passato bisogna imparare, cioè nel senso la schiavitù non è giusta e lì in Via col Vento vengono trattati in maniera umana, ci sono stati altri film tipo Radici in cui viene visto veramente com'era lo schiavismo, però non bisogna per questo nasconderlo sotto un tappeto. E bisogna affrontare e dire sì, c'è stato, abbiamo sbagliato e le persone non devono essere trattate così, punto. Ma secondo me è anche una buona occasione per leggere, più che il periodo della guerra di secessione, il 1861, come realmente fosse, che non ci sono strumenti di analisi storica in quel film, leggere la sensibilità dell'America del 1940 in cui viene prodotto questo film, che bene o male è un film che con nostalgia mostra i valori del vecchio Sud, che in fondo era basato sull'amore per la terra, la coesione familiare, su buoni valori, che in fondo rimette in discussione quello che è stato il movimento di liberazione della guerra di secessione. Se scompare Via col Vento, pensiamo che sono stati tutti buoni da 1861 fino al 2020. Secondo me è giusto questo passaggio, va letto. Ma vedete che è un film che ancora infiamma le persone. La signora che aveva una sua teoria sugli immigrati in Italia, di cui non mi va di discutere perché non è questo l'argomento, prendeva Via col Vento come esempio di un trattamento equumano dello schiavo, che è una cosa che non può più essere letta in questi tempi. Davide, provincia di Pistoia. Ascolto. Sì, buongiorno. Allora, approvo al 100% il fatto che non trovo giusto cancellare quello che è, diciamo, che è stato un passato, che sia a livello cinematografico o di qualsiasi altro genere. Via col Vento, a prescindere dalla storia, appunto, dai connotati per cui è stato diciamo, tolto da questo catalogo, credo che sia come tante altre cose che adesso andiamo a vedere a giro per il mondo e che ci piacciono. Non so, mi viene un accenno anche sull'Egitto, no? Uno va al museo a vedersi le statue di Tutankhamon, di quelle che ci sono, non credo che loro non utilizzassero gli schiavi, no? Certo, sì. Giusto. Ma noi le faccio un esempio molto più vicino di riflessione, scusa. Le immagini, se cominciamo a colpire la filmografia che va dagli anni 40 agli anni 70, mettiamo così, tutto il filone western, che fine dovrebbe fare? Cioè John Wayne dovrebbe essere messo all'indice, in tutti i film in cui Pelle Rossa sono cattivi, non parlano due parole, sono degli scotennatori e i poveri bianchi devono difendersi dalla loro furia, omettendo il fatto che in realtà quelli stavano a casa loro, vanno in linea con quello che in questo momento sta accadendo in America, stanno sradicando le statue di Cristoforo Colombo, come se fosse colpa di Cristoforo Colombo di quello che è accaduto dopo. C'è in mezzo tutto un episodio che probabilmente vada ricordato, i conquistadores, l'imposizione comunque di una regola, di una legge, che è molto più lontano del vecchio West, se vogliamo parlare di questo. Ma tutto questo ha un senso. il racconto che l'umanità ha fatto, anche se distorto, è sempre stato illuminato dalla sensibilità dell'epoca in cui viene fatto e non possiamo scordarci di questo. Adriana da Roma. Sì, Sale, no, volevo dire pure io che questa censura che viene fatta su questo film è una cosa orrenda, macabra, perché non è possibile, come ha detto già lei tutto, cioè sarebbe un rinnegare la storia. Ci sono stati dei periodi in cui purtroppo c'erano le colonie, ci sono stati prima gli inglesi, poi i francesi, poi ci sono stati gli americani. Non possiamo negare quello che siamo stati in passato, però ci siamo evoluti. È come quando vogliono mettere le brache alle statue perché vogliono adombrare le loro fattezze. Allora, quindi è una tristezza. Facciamo così, facciamo adesso, devo dare un attimo la linea io, perché sono già andato oltre il tempo. Riflettiamo su quello che è il metodo, secondo voi, per gestire un passato che in realtà è in contrasto con quella che è l'acquisizione di valori della contemporaneità che viviamo. 800 24 00 24, fra un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Sei più lenta di una marmotta. Dov'è il dottor Mead? Io non ho trovato lui. Cosa? No, non stare all'ospedale. Uomo mi ha detto che il dottore è andato a stazione per curare nuovi feriti. Perché non sei andata a cercarlo? Miss Rosella, io spaventata andare in stazione, essere tutta piena di morti e avere tanta paura di gente morta. Vai da Miss Melania e non la spaventare, se no ti frusto. Era proprio una figata stare a servizio di Rossello Ara, rispondo all'ascoltatrice, che poi mi hanno detto che è una frequentatrice di questa radio, ma non ho capito cosa voleva dire, non ho esattamente capito, voleva comunque fare un'affermazione di principio, di un suo principio ideologico, sul quale non discuto, ma non c'entra una mazza oggi. Stare al servizio di Rossello Ara nell'anno 1861 significava rischiare di essere frustate, e infatti questo ogni tanto la mena ed anche qualche bel marrovescio a questa sua piccola schiava. Evidentemente c'è qualcuno che ancora pensa che questo è un comportamento umano, ma tutto va riletto con la sensibilità dei tempi. Probabilmente i miei nonni consideravano normale averci una bissina per casa che gli facesse servizi gratis, perché lo facevano tutti, che era normale, e non voglio rinnegare la storia che sta dietro le mie spalle, solo la voglio reinterpretare. E se avessi potuto io dire la mia sull'importante canale televisivo che dice leviamo via col vento, l'avrei mandato preceduto da un chiarimento, da una specifica, da una storia, da un racconto, da una contestualizzazione, cosa che è molto più difficile che dire tagliamolo e leviamolo. Alessandro da Torino. Buongiorno Nicoletti, io sono d'accordo con lei su quello che ha appena detto, cioè a me col vento non piace come film, un po' perché devo dire è un film meraviglioso come la realizzazione per i tempi e tutto, ma è un polpettone terrificante, a me sì, non piace, però piace alle ragazze, giustamente, c'è l'amore, c'è la passione, c'è la donna determinata, bei vestiti, è pieno di vestiti bellissimi, Rossello Ara veste con, galleggia nella merda e nel sangue, ma veste con vestiti di broccato stupendi, velluti color smeraldo, quindi è chiaro che alle ragazze piaccia. Posso dire, è un film che non è neanche tanto velatamente razzista, poi ci sono persone di colore che parlano che i verbi all'infinito, cioè a me sembra una cosa drammatica. Detto questo, comunque Via col Vento è un monumento. Togliere Via col Vento sarebbe un po' come pensare di abbattere l'obelisco di Mussolini o anche il Colosseo. Che giustamente, d'accordo con lei, infatti. Diciamo che alla luce degli episodi, se uno vuole contestualizzare in qualche maniera l'attualità, si può fare una visione commentata di Via col Vento, di cosa c'è alla radice oggi della signora che telefona e voleva dire che alla fine stavano bene, cosa c'è alla radice. C'è una lettura che attraverso il tempo è stata magari inesatta, edulcorata, che in fondo a fronte dei valori dell'uomo bianco del sud piantatore di cotone, in realtà i neri che venivano portati come schiavi erano qualcosa di rango inferiore, quindi era giusto lavorassero per lui. Bisogna vedere la stratificazione del pensiero. Non dico che in assoluto il pensiero attuale contemporaneo sia il migliore in assoluto, ma è un processo di rettifica rispetto al pensiero arcaico precedente. Come ci si è arrivati? Se non si fanno vedere i passaggi, diventa veramente un'imposizione, diventa un atto vessatorio, non si capiscono le radici per cui oggi pensiamo diversamente. E lo facciamo probabilmente, l'umanità sta meglio se si pensa diversamente, è sempre finalizzata allo stare meglio, staremmo tutti meglio se non ci fosse razzismo, non perché siamo buoni o ci salviamo l'anima, staremmo tutti meglio, sarebbe una società che vivrebbe più serenamente. E far capire questo, mi rendo conto che è arduo se si esce dal recinto dell'ideologia. Carlo da Como. Pronto Gianluca? L'ascolto. Sono anch'io sulla stessa idea, ma allargherei un attimino il discorso. Se noi ad esempio guardiamo certi film degli anni 80 di Renato Pozzetto, non erano chiaramente contro il razzismo, però usavano dei linguaggi, ad esempio, contro gli omosessuali. Culo e camicia con Massimo Ranieri, me lo ricordo benissimo. Non sarebbe, sì, sì. Cioè, il vizietto, film del genere, non sarebbero più concepibili oggi. Se noi prendiamo, ad esempio... Sì, ma il vizietto nasce da un'operetta teatrale, la Cage aux Folles, che ironizzava su questa sorta di teatro en travestì. E anche lui prova a raccontare una storia. E oggi chiaramente, in un momento in cui anche ci si è evoluti da questo punto di vista, uno può chiaramente vivere la sua omosessualità tranquillamente, serenamente, senza rientrare nel recinto delle macchiette, va visto e contestualizzato. Cancellarlo non ha senso. Guardi che tutte le operazioni di cancellazione della letteratura, dei testi proibiti, non hanno fatto altro che glorificare questi testi e considerarli poi degli elementi comunque di rottura importante. Censurare non significa togliere, non si cancella la memoria. Mauro d'Arezzo. Salve, mi sembra di assistere alla rilettura del Mondo Nuovo di Axel. Allora propongo di andare a Roma e buttare giù la colonna Traiana, in quanto glorifica l'imperatore che aveva ridotto in schiavitù i Daci. È una cosa certo, è tutta una processione di gente incatenata e portata nel trionfo, è vero, appunto, verissimo. Bisogna buttarlo giù perché è un inno alla schiavitù e alla sopraffazione. Oddio, è successo più di 2000 anni fa, ma non importa, noi con la nostra enorme cultura moderna e la nostra soggettività siamo in grado di dire bene quello che è bene e quello che è il male. Anche Via col Vento è stato fatto 80 anni fa, non va dimenticato, ne sono successe di cose nel frattempo. Come chi parla dell'imperialismo romano, l'imperialismo è stato inventato dopo. A quei tempi chi aveva la forza faceva un impero, tutti. I romani sono stati più bravi Mauro, noi potremmo stare a parlare settimane, mesi su come era diverso il pensiero arcaico rispetto al pensiero contemporaneo. Dato tutto questo per scontato, che siamo pieni di vestigia di mondi che avevano visioni della vita diverse dalle nostre, cosa facciamo? Rettifichiamo il passato? Riscriviamo la storia ad uso dei bambini e delle persone buone d'animo? Secondo me la storia va rimostrata in tutta la sua crudezza, va solo interpretata, capita. Bisogna avere elementi per capire perché nell'America degli anni 40 c'era un forte movimento che in fondo era nostalgico di questo clima idilliaco del buon sud, che tutto sommato aveva anche una visione umana, sì, perché diceva ti frusto, però in fondo era quasi una seconda mamma. In questa trappolona c'era caduta l'ascoltatrice prima. Cosa dice? Io tutta la vita sognavo di avere una mamma. Grazie. Chi è che non vorrebbe una donna a tuo completo servizio? Bella, accogliente, simpatica, ti cucina, ti veste, ti dà anche le direttive. Esci troppo scollata, quindi ancor più attenta di una madre, capito? Però non la paghi e se fa qualcosa che non ti va la frusti. Tutti in teoria nella nostra parte animale vorremmo avere qualcuno a nostra disposizione gratis, senza in cambio dare nulla, né di impegno etico, morale, relazionale, né dal punto di vista della giusta retribuzione di un lavoro. Ugo da Biella. Ugo da Biella si è autocensurato, provo a dire, si parlava di schiavi già nella Bibbia, quindi andrebbe censurata la Bibbia. In linea di massima è così, il meccanismo è esattamente questo. Fabio da Bergamo. Sì, ciao Nicoletti. Ma anch'io d'accordo con tutti quelli che mi hanno preceduto, anzi rilancio, ti dico, alcuni testi di canzoni oggi sarebbero da censura. Vasco Rossi, Colpa di Alfredo, è andata a casa. Sì, ma lei pensi Siamo i Vatussi? Questa mattina con Fabrizio Intonti risentivamo Siamo i Vatussi. Cara canzone, ci abbiamo riso tutto, ma altissimi negri, cioè proprio, lo dice chiaramente, le clip del tempo che illustravano Sammy Vatussi, cioè vedere questi qua con lo sguardo imbambolato, come degli scemi altissimi, capito, che erano altissimi negri, ballavano l'Aligalli, che la loro unica preoccupazione era ballare l'Aligalli. È chiaro che c'è tutta una lettura, ma in quel tempo Vianello, che era una persona stimabilissima, di ottimi sentimenti, pacifico e tutto, non pensava che fosse potesse esserci un'accezione offensiva nella canzoncina dei Vatussi. Oggi la possiamo ascoltare, la guardiamo come Raiteche, come una vestigia del passato, e riflettiamo sul fatto che magari abbiamo capito qualcosa in più. Ferruccio da Venezia. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì. Stavo sentendo con attenzione la trasmissione. Secondo me però sarebbe più ad approfondire un altro tema. Il senso è che Via col vento, secondo me, per quanto io l'ho visto un po' di volte, ma dileggia, a parte la schiavitù, eccetera, eccetera, che è noto e trasuda quel film, di quel tipo di sentiment, ma dileggia anche la figura di Mami, piuttosto che delle persone di colore, piuttosto che... Sì, sì, rientrano tutte in uno stereotipo che... collocava le persone nere schiave come dei personaggi, ma in fondo anche la capanna dello zio Thomas, Tom Sawyer e tutto quel filone lì di racconti per ragazzi che erano bellissimi. C'è sempre comunque la figura del nero, che è una figura che comunque rientra in uno stereotipo macchiettistico, che comunque lo inchioda in quella posizione. Le Mami tutta la vita possono far soltanto le Mami, non possono diventare magari le matematiche che hanno mandato gli uomini sulla Luna, ad esempio, come è accaduto poi nella storia. Ci fermiamo un istante. Melog. L'hai vista, Mami? Non è brava? Mister Red, io avrei detto e ridetto che non stare bene che una donna andare a cavallo da uomo o gonzo dana su. Va bene, Mammi, le insegnerò a cavalcare da donna e le comprerò una mazzone di velluto azzurro, le piacerà. Di volere vestito nero, bel signorine. Oh, Mammi, andiamo, sì, ragionevole. Non essere adatto quando non essere adatto. E non essere adatto. Sono grato a Valeria Bernardi e Giorgio De Luca che mi seguono da Milano, da Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti che mi seguono da Roma. Oggi stiamo parlando della questione Via col vento, che l'HBO ha già deciso di togliere nei film che possono essere visti a pagamento dai suoi utenti. Perché? Perché è un film che ha indubbiamente è basato su una visione della guerra di secessione favorevole al sud che ha perso, al sud razzista, al sud che aveva comunque come forza lavoro gli schiavi neri. Noi ci stiamo riflettendo con il nostro pubblico e vediamo che molte volte il politicamente corretto, a me che è stata una giusta maniera per rivedere il nostro pensiero arcaico, esagera. In questo caso bisognerebbe dare un correttivo, una presa di distanza critica in cui il film può essere visto e ragionato. Toglierlo non puoi cancellare quello che era il pensiero americano nel 1940, che vedeva naturalmente giusto il fatto che bianchi e neri comunque se ne stessero separati. Emanuela da Prato. Buongiorno, volevo intervenire perché non importa andare in America per vedere della schiavitù. Io mi ricordo, io ho 80 anni, ma io mi ricordo che le ragazze dei contadini poveri venivano a servizio in casa, non prendevano niente, lavoravano, e poi quando arrivava all'età del marito gli si faceva un po' di dote. Quindi, guardi che me lo ricordo io negli anni 60, non è che bisogna andare tanto indietro. E le mondine, se si ricorda le mondine come venivano trattate? Non pagate erano il riso, pagate con sacchi di riso, certo. Oh, non erano riso. Schiave tenute in quelle condizioni. Quindi non riso amaro, ci hanno fatto America. Un film. È vero? Sì, non importa, però vede, lei ha citato, per questa ragione, Riso amaro non dovrebbe essere più trasmesso, che mostra una visione del passato in cui certe cose... Però è un film che prende le distanze, Via col vento non prende le distanze. Questo, il limite del film è che non prende le distanze, lo mostra come la migliore società possibile, anzi con una nota di nostalgia che purtroppo hanno perso. È un film che dà l'idea che la parte migliore dell'America fosse stata quella. Giulia, provincia di Como. Sì, buongiorno a tutti. L'ascolto. Io penso che sia un film del suo tempo che raffigura appunto alcuni pregiudizi etnici e razziali che erano disgraziatamente dati per assodati nella società americana. Io sono mamma di un bimbo di colore e i bimbi devono iniziare a non avere questi dolorosi stereotipi. Bisogna iniziare da loro, loro sono il futuro. Ecco, però lei, Giulia, lei è molto interessante la sua testimonianza. Come la vede dal suo punto di vista? Proviamo a proiettarla nella sua situazione familiare. Lei parla giustamente perché lo sente più sulla sua pelle. Noi possiamo parlare in astratto, bello, brutto, leviamo, non leviamo, lo facciamolo vedere. Ora, suo figlio potrebbe soffrire a vedere un film come Via col vento? Potrebbe soffrire, assolutamente sì. È indubbiamente, è chiaro che è così. Noi il messaggio che gli diamo è che lui è di colore. Cioè, questo non mica può cancellarlo. Certo, e non è un'offesa, non è un'offesa. Lui per scherzare mi dice, noi siamo cioccolatini e tu sei mozzarella. Quindi è l'ingenuità, no? Poi mi fa capire come si gestisce questa, diciamo... questa necessità di ulteriori strumenti culturali. Ora, mettiamo che suo figlio fosse accanto a lei, sente questa trasmissione, le fa qualche domanda, mamma, perché non vogliono far vedere questo film? Lei dovrebbe farglielo vedere e spiegargli il contesto, con molta difficoltà, perché parliamo bene noi che abbiamo la pelle bianca, di razzismo, di esagerazioni così, ma provate a trovarvi. Io l'ho detto una volta alla radio e lo ridico. La prima volta che capitai in una città africana, Nairobi, ero l'unico bianco in una strada popolata e gente nera camminava. E ho sentito esattamente cosa significa avere la pelle diversa in un posto dove tutti ce l'hanno di un altro colore. Non è una sensazione che ti dà subito serenità, lo capisci? Lei come gestirebbe questa cosa, Giulia? Guardi, io le dico solo questa cosa, un po' risponde a quello che lei mi chiede. Quando io e il mio compagno andiamo in giro, io sono del 1989, lui è del 1987, è in Italia da 25 anni, eravamo compagni delle scuole medie. A Como, in una città così piccolina, talvolta ci guardano ancora. Certo. Quindi, immagino, sicuro. È la stranezza, no? Poi quando andiamo a Londra, la sua famiglia a Londra, è tutto molto rilassato. Però Giulia, io non voglio fare il buono di natura. Noi siamo intrisi di pregiudizio. Il pregiudizio è in noi. In tutti noi la diversità in qualche maniera ci fa venire, ci fa alzare le difese. Il lavoro che si fa è un lavoro di incivilimento, è un lavoro culturale. Più un paese è incivilito, più è culturalmente avanzato, più è assimilato questa cosa istintiva e più naturalmente lei avrà meno problemi ad andare in giro. E questo è il problema, capito? Ma gli strumenti culturali si affinano attraverso l'elaborazione e non si elabora se non si ha in mano la materia viva di ciò che, su cui bisogna lavorare culturalmente. Non so se mi sono spiegato. Sì, assolutamente. E il messaggio che faccio sempre passare al mio bimbo, pur avendo 30 anni, quindi immatura, tra virgolette, è che la razza è umana. È umana. Sì, è bello dirlo quando arriviamo a questa conclusione attraverso una serena capacità di dircelo a noi stessi. Il problema, l'ho detto prima, è puramente strumentale. Noi vivremmo tutti meglio se noi capissimo che si starebbe tutti, ma non perché bisogna essere buoni, bisogna essere politicamente corretti, bisogna essere di sinistra, sono cazzate. Vivremmo meglio se non ci fosse questo pregiudizio, staremmo tutti più sereni. Questo io l'ho capito a 60 anni, non è che ragionavo così quando ero ragazzo, ma ero fra le persone che se la vedeva per strada con il signore nero, la guardava e magari occhieggiava e magari faceva pensieri discriminatori. Grazie a tutti gli ascoltatori, alla prossima.